Hadith numero 39, da Ibn Abbas, che Allah si compiaccia di lui e di suo padre. È stato trasmesso che l'apostolo di Allah disse: in verità Allah, per benevolenza nei miei confronti, tollera e lascia correre nella mia comunità l'errore, la dimenticanza e ciò a cui sono stati costretti. Hadith buono, l'hanno riferito Ibn Majah e Al-Baihaqi e altri.